Guarda lo splendido mare davanti a noi. Vieni, camminiamo fino al faro. Ma che fai, ci provi? Dai, vieni qui, non intendevo offenderti. Torna qui e partiamoci dietro con gli scogli. Come sei esuberante. Amore mio, ti amo moltissimo.